si vede una signora, una professoressa, immagino che butta via un libro, perché? Sì, li butta, ne butta due o tre dietro le sue spalle, perché si è un po' stufata di andare in classe a convincere ogni giorno i ragazzi che è bello studiare, che è bello leggere, che bisogna stare in casa qualche ora al giorno sui libri, che un giorno capiranno l'utilità, che il latino non è inutile, che la grammatica bisogna farla e che la lingua italiana bisognerebbe saperla e sapersi esprimere oralmente e per scritto anche molto bene, vista la complessità del mondo in cui viviamo. Ecco, lei si descrive un po' come l'ultimo soldato giapponese rimasto a mitragliare per aria e a cui non avevano detto che la Seconda Guerra Mondiale era finita. Sì, perché, sa perché? Perché io prendo i ragazzi che hanno 14-15 anni, quindi hanno fatto 8 anni di scuola, e siccome appunto ripeto, non solo non sanno scrivere in modo corretto, ma non sanno esprimere i pensieri, mi sono chiesta molto semplicemente che cosa abbiano fatto. Sicuramente hanno lavorato moltissimo perché le nostre scuole sono ottime, ma avranno fatto altro. Allora chiederei di dire anche a noi insegnanti di lettere del liceo se dobbiamo smettere, se dobbiamo fare altro anche noi, cioè detto in altre parole, mi sembra ci siano due idee di scuola oggi in Italia, forse nell'Occidente tutto intero, che non vanno d'accordo l'una con l'altra, allora bisognerebbe scegliere. Perché se io per 8 anni faccio una scuola impostata sul gioco, sul videogioco, sulle tecnologie, sul teatro, sul divertimento, sulla socializzazione, poi non posso avere un liceo che invece punta ancora allo studio astratto, alla concentrazione, alla capacità razionale, cioè a una civiltà del logos. Decidiamoci, è sparito il logos o c'è ancora? Sì, perché altrimenti giochiamo, è una battaglia persa già in partenza, insomma, prenderle a 15 anni in queste condizioni. Sì, o comunque allora facciamo un liceo che continua quella scuola di prima, ma non è possibile, c'è una specie di sfasatura, non ci siamo messi d'accordo. Di incoerenza, certo. Sì, ecco. Allora anche l'università, però allora la impostiamo diversa anche quella, perché poi non possiamo fargli leggere un libro di Kant se non gli abbiamo fatto dalla prima elementare una certa scuola. Ma allora è questo, da questo nasce il libro, da una domanda, ma noi ci crediamo ancora? Allora smantelliamo tutto, però non lasciamo alcuni sì, altri no. Ecco, lei scrive a un certo punto: oggi se parli di studio sei subito vecchio, pesante, lento, sì, bacucco, sì, fuori sì. Modi, antipatico, noioso. Studio è una infatti parola perdente a priori, appena la pronuncia hai già perso. E infatti sto facendo esattamente questa parte di vecchia, antiquata, bacucca, fuori moda, fuori tempo. È molto più divertente prendere l'altra parte, il professore allegro, spiritoso, amicone, che fa giocare, che diverte, eccetera. Lo so, che dobbiamo fare? Ecco, dal suo libro emerge anche un ritratto dei ragazzi che, voglio dirlo, lei non li colpevolizza, devo dire la verità, probabilmente sono in parte vittime di questa scuola, di questa società più in generale, però insomma li descrive in maniera davvero poco lusinghiera, non studianti, assenti, chattanti, che dedicano più tempo a vestirsi, a truccarsi per le ragazze, a mettersi a posto i capelli, la cresta per i ragazzi, insomma hanno tempo per tutto meno che per studiare. Certo, sì, che poverini, sì, escono proprio male da questo libro, i suoi ragazzi. Ma guardi, allora, mettiamoci d'accordo anche qui. I nostri ragazzi sono veramente meravigliosi, simpatici, carini, gentili, al liceo poi non le dico, io tra l'altro lavoro in un liceo molto bello, buono, insomma. Sono anche interessati alle lezioni, partecipi. Il problema è a casa che non aprono molto poco i libri, o comunque se li aprono aiutati dalle madri, dalle nonne, da infiniti professori che fanno lezioni private, cioè c'è proprio questa idea di fatica. E io volevo dire una cosa molto seria invece ai giovani, che di non farsi prendere in giro da alcuni adulti che non fanno gli adulti in realtà. Cioè, va benissimo, si vestano bene, ci mettono anche ore a vestirsi, ma ore e ore di studio queste le devono mettere in qualche modo in conto, perché non è vero che ce la faranno anche senza. Mi sembra un inganno veramente ai loro danni. Lo so che è un discorso antipatico, ma qualcuno glielo deve più pur fare, qui non lo fa più nessuno. Certo. Lo so, lei parla anche molto male dei genitori, ma questo è un altro capitolo. Lei scrive anche che voglio dire che una società del piacere ha bisogno di una scuola del piacere, non certo di una scuola della sofferenza o della fatica. Esatto, anche qua una grande discrepanza tra la società, tra come viviamo, no? Cioè il fatto che viviamo bene, insomma, abbiamo a volte due auto, due telefonini, la seconda casa, per carità, no? Va benissimo, siamo una società del benessere ancora, poi vedremo nei prossimi anni, ma allora dobbiamo avere una scuola del benessere dove appunto si faccia, ma non tanto, insomma ci si diverte, eccetera, benissimo. Poi però non chiedeteci di grandi risultati né al liceo né all'università, ecco, accontentiamoci di una zona media, grigia, e allora va benissimo, può anche darsi che non ci serva più, tranne quel 10%, perché nel libro io ne parlo, di quelli che ancora ci credono, che ancora sono disposti a far sacrifici sia i ragazzi che le famiglie, e che in effetti arriveranno molto in alto anche andando all'estero, per carità, mi pare che sia il 5% i ragazzi che vanno all'estero e hanno successo negli studi. Altro momentaccio, altra descrizione impietosa è quella dei pomeriggi dei nostri ragazzi. Il computer abita fisso sulla scrivania, vive sempre acceso. Apre Facebook, guarda se qualcuno gli scrive. Sì, qualcuno gli scrive, legge, risponde, aspetta la risposta, ri-risponde, riaspetta la ri-risposta, tira fuori i libri dallo zaino, ne prende uno, lo apre un po', studia un po', poi gli citofona un amico, scende, fai un giro, prende il motorino, fa un giro, torna, si rimette a studiare, si risdraia, risente la musica, ricatta, riapre internet, insomma non è così che si studia. Sì, mi fa una gran tenerezza, anche diciamocelo, cioè li abbiamo anche un po' lasciati soli, io non so, oppure dovremmo lasciarli più soli ancora in modo che recuperino un senso di responsabilità. Io qui lascio aperta la domanda perché non lo so, però così non va bene. Intanto abbiamo completamente annullato parole come dovere, costrizione, noia e solitudine, che invece io penso servano fortemente alla crescita interiore di ognuno di noi. Viviamo tutti sempre fuori, in esterni, giriamo in esterni, ecco, sempre con gli altri, sempre attaccati, collegati, connessi. Anche noi adulti, eh? Eh sì. Io penso che tutti noi dovremmo recuperare una zona più interiore, anche più spirituale, se posso dire. E lo studio è una faccenda che ha a che fare con lo spirito, eh? Assolutamente. Il concentrarsi, il fermarsi, il pensare, sì. Il pensare a se stessi. Esatto. Contemplare. Senta, insomma, alla fine qual è la sua proposta? Ma guardi, alla fine ognuno scelga veramente che vita fare, non siamo più un paese in grado di condurre nessuno, lo dico con grande tristezza, non è uno Stato che prende una posizione chiara, non è una scuola che dice con chiarezza dove vuole portare i giovani, pensi che la parola programmi non esiste più da anni, non ci sono i programmi, ci sono vaghe indicazioni ministeriali che ogni insegnante può seguire o meno. Allora, l'abbiamo veramente lasciata andare allo sbando. Il mio appello ormai è alla responsabilità individuale, alla scelta. Aristotele diceva che nella scelta c'è la felicità. Certo che è dura. Comunque, non so, c'è anche la via. Cioè, diciamoci anche una cosa, lo studio astratto, cioè lo studio proprio sui libri, non importa poi se i libri andranno su video o meno, ma lo studio astratto, cioè prendere un libro da pagina 1 fino a 300 e impararlo, questa cosa può anche non piacere alla maggioranza dei ragazzi. Non dobbiamo nemmeno pensare di dover avere una società dove tutti si laureano in filosofia e fanno ricerca, non le pare?